questo amici il luogo ove dovremo la vittima svenar. Fra pochi istanti Cesare giungerà, vorrei... Ma parmi che altri sapressi, e questi certamente diranno ai dei, se vendicata or sono, ogni oltraggio sofferto io vi perdono. Ecco Tisi del Ponte, alla ti segni questo il parco sarà. Floro, m'ascolti, è giunto il tempo delle vendette mie. Fungi potuto ingannarmi così, no, dell'inganno tutta la gloria è mia. Della sua fede giurata a te, contro di te mi valsi, perché impedisse il tuo ritorno al campo. A fulmio io figurai tutti che sulle porti tuoi perigli, per condurti ove sei. Floro io mandai, con simulato zelo, a palesarti questa incognita strada. Or dal mio sdegno, se vuoi, ti invola. Colpin che chiedi, il sangue tuo, si lieve non è l'impresa. Or lo vedremo. Amici, l'usurpator svedate. Prima voi caderete. O la fermate. Vado avverso. Che miro. All'orchio cerco la fuggitiva figlia e in udica ritrovo in mezzo all'armi. Che si vuol, che si tenta? La morte mia, ma con vilpa. Mi erreo di sì basso pensiero. Emilia! Emilia! È vero, io fra noi lo ritenni. In questo luogo venne per opera mia. Chi vuole all'ombra dell'estinto Pompeo svenar l'indegno, non turbarne il piovendo e il gran disegno. E romana qual sei, speri adoprar con lode la greca insidia e l'africana frode. Parti e ti scorda l'idea di un tradimento. Ecco il fato di Roma. Altre insidie hai sospetto? Ove tu sei, che può temerle? Ebbene, stringi quel ferro, risparmi il sangue nostro, quello di tanti eroi. Come? Se qui paventi di nuovi tradimenti, scegli altro campo e decidiam fra noi. Io pugni tego, non fia ver, saria della perdita mia più infausta la vittoria. E non vantarmi tanto amor, tanto zelo, all'armi, all'armi! Faccia lo schiero in faccia, si combatta se vuoi, ma non si vegga per qualunque periglio, contro il padre di Roma armarsi un figlio. Eroici sensi estrani a un seduttor delle donzelle in petto. Sarebbe mai difetto di valor, di coraggio, quel color di virtù. Cesare soffre di tal dubbio l'oltraggio, e se alcun si ritrova che ne dubiti ancor, ecco la prova. Si ha perduti, che fu l'armi nemiche sulla salita impura. Eccola apparir. Non basta armace a incoraggiare i tuoi. Se tagli un punto, oggi all'estremo il nostro fato è giunto. Di private contese, Cesare, non è tempo. A tuo talento parti o t'arresta. Ah, non tardare. La spine si ripone in te solo. Volo al cimento. Alla vittoria io volo. Sventure eguagliarsi con me, spesso per gli altri e parte e fa ritorno la tempesta, la calma e l'ombra, il giorno. ma costanza funesta.